בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Non siamo proprio puntualissimi questa sera, Maurizio? No, buonasera Gil. Buonasera Maurizio, buonasera da Blu Radio Veneto a tutti voi che siete all'ascolto. Allora, Maurizio. È una puntata importante, molto importante stasera. Avremo una prima parte dedicata a un'intervista telefonica, con una cosa molto interessante. Finalmente potremmo dire, finalmente. Finalmente, finalmente, perché non vedevamo proprio l'ora di avere ospite con noi questa sera Simone Avincola. Ciao Simone. Ciao, ciao a tutti e due, grazie di avermi ospitato. Buonasera Simone. Dovere, dovere anche nei confronti del lavoro che hai fatto, molto importante, che tra pochissimi minuti inizieremo a parlarne. Da dove ci stai chiamando, Simone, lo vogliamo dire? Sto chiamando dal cuore di Roma, la città dove abito e dove sono nato. La meravigliosa Roma, è ancora nuvoloso, com'è lì? È un po', guarda, c'è stato il sole fino a oggi, oggi si è un po' annuvolato. Quindi speriamo bene, però insomma, vabbè, meglio così, è stato un periodo di piogge intense. Allora, diciamo che Simone ha fatto una cosa particolare, però prima di parlare di questa cosa particolare vogliamo presentare, dire anche chi è Simone. Come possiamo presentarti, Simone? Guarda, mo c'ho un po' di crisi di identità, perché come sai sono nasco come cantautore e adesso mi sono improvvisato regista, l'ho fatto col cuore perché... Oh, vabbè, poi insomma ne parleremo, appunto, ho realizzato questo documentario su Stefano Rosso, per cui però prima di tutto mi sento più cantautore, sinceramente, diciamo. Cioè, regista solo per Stefano stasera, solo per Stefano Rosso. Esatto, poi chissà. Non si sa mai, esatto. Allora diciamo appunto che proprio in base a questa divisione questa sera parleremo solo del lavoro che è importantissimo che ha fatto Simone Avincola, dedicato proprio a Stefano Rosso. In una successiva puntata presenteremo invece solo Simone Avincola come cantautore. Spero tra non molto tempo, no, Simone? Sì, sì, spero anch'io, perché sono ormai quasi 2 anni che sto lavorando a questo mio disco, e quindi spero, insomma, dopo l'estate di riuscire a farlo uscire. Però per lavorare nel film che è dedicato a Stefano Rosso ci hai lavorato parecchio, in ogni caso. L'idea, quando nasce? Quanto tempo fa è nata l'idea, Simone, di questo omaggio, finalmente possiamo dire? Perché è stato dimenticato Stefano Rosso, assolutamente, sì, purtroppo. Sì. Diciamo che allora l'idea è nata nel 2009, perché io ho avuto la fortuna e il piacere di vincere la prima edizione del premio Stefano Rosso, che fanno da un po' d'anni qua a Roma. E diciamo quello è stato l'occasione attraverso la quale, diciamo, io sono riuscito a entrare in contatto con una parte dei familiari, degli amici e degli artisti, insomma, che gli hanno voluto bene, per cui da lì, diciamo, è nata l'idea, perché mi è sempre sembrato un po' ingiusto, no, il fatto che, come dicevi tu, insomma, Stefano sia stato dimenticato sia in vita che dopo la sua scomparsa. Per cui ho sempre detto voglio fare qualcosa, voglio dare il mio contributo, e mi è venuta in mente questa idea, insomma, di fare questo film documentario, intervistare appunto quelli che sono stati gli amici e gli artisti che lo hanno conosciuto. Senti Stefano, vogliamo prima di presentare Stefano Rosso, per chi non lo conosce, vogliamo dire chi era Stefano Rosso in 2 parole, poi approfondiremo meglio, ma magari per chi ancora non conosce chi era Stefano Rosso. Stefano Rosso era un cantautore fenomenale, secondo me non esagero, il mio pensiero, penso sia stato veramente uno dei più grandi cantautori italiani che abbiamo avuto, insomma ebbe molto successo negli anni 70 con la canzone famosa che parla dello Spinello, la prima volta in assoluto in Italia, che poi ne parleremo, che poi non era per niente vero, Stefano l'ha detto un sacco di volte, ma tutti quanti lo identificavano come lo Spinello. È vero. E poi soprattutto, se vogliamo descriverlo in pochissime parole, secondo me è stato l'unico artista coerente al 100%, non si è mai venduto, e questo sicuramente, cioè, diciamo, questa coerenza artistica che secondo me al giorno d'oggi manca, è la cosa che mi è sempre piaciuta di più di lui. Ecco. Allora introduciamo Stefano Rosso, ci ascoltiamo Letto 26. Mm. via della scala è sempre là, e io dal letto 26, malato di pazienza sto, e aspetto chi non torna più, è un ragazzino magro che cantava sempre insieme a me, e morì un giorno che non so, e i suoi bei sogni mi lasciò, e Biancaneve è ancora là, è un po' invecchiata ma che fa, le mele non le mangia più, forse i ragazzi giù del bar, ricordo tanto tempo fa, veniva a scuola insieme a me, la guerra già non c'era più, e poi non c'eri neanche tu, la brillantina è via così, si incominciava il lunedì ad invidiare quello che aveva un libro da studiare, diceva non ti serve a niente, la scuola non ti servirà, e invece io tra quella gente capivo un po' di verità, la marijuana ti fa male, il Chianti ammazza l'anemia, i miei compagni li ho lasciati, ho preferito andare via, così ho comprato un giradischi, uno di quelli che non va, per non dar noia a quel vicino che non riesce a riposare. Ho conosciuto tante donne, cattive, oneste e senza età, a tutti ho dato un po' qualcosa, con tanta generosità, a lei mia madre i dispiaceri, mentre a mia moglie dei bambini, al primo amore i sentimenti, i baci e l'acne giovanile, via della scala è sempre là, e io dal letto 26, io chiudo gli occhi e penso a te, ti sento invece non ci sei. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Ecco, quante cose dovremmo chiedere a Simone su Stefano Rosso. Comunque volevo ricordare che chi vuole interagire anche con Simone può collegarsi alla pagina Facebook Blu Radio Veneto, Rockway, perché ne abbiamo due, e mettere i vostri post, e noi le leggeremo pure anche in diretta. Maurizio. Sì, Simone, questo è la romanità popolare, questo è proprio il centro della romanità popolare, questo pezzo, secondo me. Cosa dici, Simone? Sì, secondo me pure. Tra l'altro c'è tutta una storia particolare. È una storia interessante, che citi in qualche secondo, ce la citi, così gli ascoltatori devono sapere, perché al di là della degenza ospedaliera, dell'operazione, Letto 26 apre un orizzonte importante, la romanità popolare che ormai è scomparsa, che non si vede più, non si sente più. Eh sì, guarda, hai detto benissimo te, tra l'altro è proprio una canzone che racconta questo, sembra di stare lì, insomma, anzi qui, io dico qui, perché poi io sono un quartiere molto vicino a Trastevere, che era appunto il quartiere dove è nato Stefano, e lui è sempre stato molto nostalgico nelle canzoni, no? Cioè si respira sempre quest'aria di passato, come se con questo passato che però non riesce a ritornare perché viene schiacciato in qualche modo dalla modernità, no? E tra l'altro, vabbè, insomma, poi ci sono anche delle storie molto carine che poi ci stanno anche all'interno del film che ho fatto e che mi raccontava anche il fratello, no? Cioè lui per esempio, c'è questa cosa strana che lui scrisse questa, letto 26 all'ospedale e poi lo portarono il giorno dopo proprio in un letto che era il letto 26, sì, tra l'altro. È vero. E poi è una strada molto bella di questo quartiere popolare romano che è appunto a Trastevere e che è collegata a Via Garibaldi, dove nacque il primo locale importante a Roma, no? Che era il Fox Studio. È importantissimo. Esatto. Stefano e il Fox Studio hanno un legame strettissimo, straordinario, sì, perché il Fox Studio è straordinario nel tuo film, è un elemento imprescindibile. È vero, infatti per questo tra l'altro voglio ringraziare Matteo Alparone che è la parte tecnica, che è colui che si è occupato del montaggio e che mi ha dato anche molte idee, perché abbiamo deciso proprio di racchiudere, fare un capitolo proprio dedicato a questo Folk Studio che poi era un locale barra cantina, no? Perché esattamente, poi alla fine... barra cantina, alla tavern dei Beatles praticamente. Esatto, dove nacquero proprio, non passarono, proprio nacquero proprio tutti i grandi cantautori, quasi tutti i grandi cantautori italiani, da Stefano Rosso a Macchia, a De Gregori, a Venditti, e appunto era questa cantina dove gestita da un certo Giancarlo Cesaroni, personaggio molto atipico, raccontato molto bene da alcuni artisti nel film, insomma attraverso Luigi Grechi e Edoardo De Angelis, dava una bella caratterizzazione di Cesaroni. Esatto, ed era questo locale dove chi voleva poteva suonare, fare le sue canzoni, e poi fu appunto il luogo dove Stefano venne un po' battezzato, no? Perché fu diciamo le sue prime apparizioni furono su un palco, insomma furono lì, insomma, Folk Studio. Senti, Folk Studio è stato determinante quindi per molti cantautori degli anni 70. Esiste ancora, secondo te, un Folk Studio a Roma o in giro per l'Italia? Purtroppo no, diciamo che per fortuna almeno qui a Roma, vi posso dire che diciamo qui a Roma un po' di locali ci sono che fanno, diciamo che cercano un po' di realizzare delle serate magari un giorno a settimana, cioè il giovedì per esempio, spesso in alcuni locali a Roma si cerca di fare una sorta di palco libero eccetera, però diciamo un Folk Studio, proprio Folk Studio così, non c'è purtroppo, ed è un peccato. Bisognerebbe chiedere anche al comune, perché rifondare un Folk Studio secondo me sarebbe molto, molto, soprattutto al giorno d'oggi dove certa musica viene passata solo in televisione, sarebbe un bello spazio dove poter ospitare molti cantautori che invece magari in televisione non riescono ad andare. Mi pare che nel Folk Studio c'è una regola ferrea, non so se poi è sparita, che Cesaroni voleva solo canzoni originale dei cantautori e non cover. La regola ferrea, era cattivissimo. Sì, era cattivissimo, tra l'altro non faceva nemmeno bere. Esattamente, non faceva nemmeno bere, è vero questo. Nemmeno bere, diceva voi ragazzi, volete suonare, parlare, poi era vabbè, questo, li cacciava, cioè proprio, se parlavi ti cacciava proprio dal locale. Simone, entriamo un po' nel vivo del tuo docufilm, perché possiamo chiamarlo così, docufilm è il termine esatto, no? Cosa ti ha spinto principalmente a dedicare, a fare, a realizzare questa, io la posso chiamare anche opera, è una cosa grande, non credo. Io ti ringrazio. Proprio cosa ti ha spinto alla fin fine proprio di fare questo importante lavoro su Stefano Rosso? Guarda, veramente la cosa che più mi ha spinto è stata proprio questa ingiustizia, ma senza esagerare, però dico sinceramente, questa ingiustizia che c'è stata verso la figura di Stefano. Cioè il fatto che non gli sia stato riconosciuto a dovere, non gli siano state riconosciute le opere che ha fatto, cioè queste canzoni meravigliose, che è stato un po', diciamo, secondo me, gettato nel dimenticatoio, no? Per cui ho voluto dare, diciamo, il mio così umile contributo, sperando che veramente che questo possa essere il primo passo per una riscoperta di Stefano, un po' come poi è stato fatto anche Berrino Gaetano, che comunque era anche a quel tempo anche un po' più famoso. Che mangiava le pizze con Stefano. Amici. Come? Che mangiava le pizze con Stefano Rino Gaetano. Si mangiava le pizze, siete informatissimi. Sì, abbiamo seguito bene il tuo documentario film, mi pare giusto. Sì, sì.

Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Rieccoci in studio, vi ricordo che siete collegati con Blu Radio Veneto, 88.700 MHz e 94.600 in modulazione di frequenza. Con noi Simone Avincola per parlare di Stefano Rosso. Simone, vogliamo dire qualcosa di particolare riguardo a questa canzone? Perché già aveva accennato Maurizio che Stefano ha voluto interpretarla in una maniera, chi l'ascoltava l'ha interpretata in un'altra. In una sola maniera, Simone, assolutamente. Sì, è vero, è vero, è vero. Ma a parte che c'è da ricordare tra l'altro che lui fu il primo a parlare di queste cose, sì, di droghe leggere nelle canzoni. E tra l'altro anche un altro aneddoto che lui racconta è il fatto che lui si presentò all'RCA con un po' di canzoni e questa l'aveva messa così, insomma, tanto per così, e invece poi alla fine la vollero sentire tutti i costi. E divenne addirittura una hit poi di quel disco e poi di quegli anni. Certo, ma dobbiamo sottolineare anche una cosa, Simone, che all'RCA sì, lo presentò Claudio Baglioni nel 74. Sì, accadde un po' una cosa strana. Baglioni andò... Devi raccontarmi questa cosa strana, perché è collegata con Baglioni, è una cosa molto interessante. È vero, perché lui si presentò, cioè Baglioni si presentò in televisione. A uno spettacolo, un programma che aveva lui. Esatto, e quindi fece questa apparizione in televisione e cantò un paio di canzoni di Stefano, senza dire che erano le sue, per cui... Senza dire Stefano... che erano le sue, sì. Esatto, quindi accadde questa cosa, e diciamo che Stefano rimase un po' così e quindi andò a bussare all'RCA e disse: guardate che queste canzoni sono le ho scritte io. Poi si è scusato Baglioni un po' di anni dopo. Esatto, però diciamo che grazie a questa cosa lui ebbe il primo contatto con il contratto con l'RCA, perché insomma l'RCA dice: ma sei tu veramente che scrivi queste canzoni? E fece il primo contratto. E poi sì, un'altra cosa che di questa canzone, una storia disonesta che fu fraintesa, come dicevate voi, perché inizialmente si chiamava, pensate, L'arte di far politica, per cui era una critica sottile e ironica a certi politicanti che infatti la storia racconta questo, no? Di questi politicanti che stanno in una casa, discutono di politica e fanno delle critiche sulle droghe leggere eccetera eccetera, e poi invece lui, uno di questi qua, caccia via tutti e poi rimane solo e Stefano Spinello. Ecco. Sì, ma piacque molto musicalmente, ebbe forse il più grande successo di Stefano questo pezzo, sicuramente. Sì. Infatti insomma, a me, quando spesso parlo di Stefano Rosso con amici, a parte ormai i miei amici ormai lo conoscono tutti, perché io ho fatto una testa tanto ormai, però diciamo che quando incontro persone nuove, diciamo così, e gli parlo di Stefano Rosso, purtroppo accade questo: ma Stefano chi? Poi gli canti questa canzone e dicono: ah. Purtroppo, Simone, tu lo sai benissimo, e in CD è stato stampato solo uno o due dischi di Stefano ne ha fatti 8, e quella è una cosa assolutamente negativa. Per conoscere un artista bisogna sviscerare tutto il prodotto dell'artista, non solamente il grande hit. Ne ha fatti altri pezzi ben più importanti, anche se non sono diventati degli hit. È vero, sono d'accordo, guarda, veramente. Solo che come sappiamo la discografia oggi già non ce la passa bene. Però secondo me, ecco, dovrebbero un po' rischiare, no? Già la discografia secondo me in generale dovrebbe, anche se non se la passa bene, rischiare un po' di più anche su nuovi cantautori eccetera. E poi magari in questo caso secondo me ne darebbero anche un certo guadagno, no? Anche a cercare di ripubblicare dei dischi, perché effettivamente dei CD si trovano solo delle raccolte ed è anche difficile trovarle, fra l'altro. È un peccato. Pensate che Simone è andato a pescare addirittura nell'intervista di questo, per la realizzazione di questo documento, il falegname di Folk Studio. Incredibile. È vero, ma io ero lì per caso, perché stavo intervistando il fratello di Stefano e un suo amico di infanzia, e che mi hanno portato di fronte a una delle sedi del vecchio Folk Studio, e di fronte c'era questo falegname. Io mi ricordavo di questa storia, di questo falegname, cioè, quindi sono andato a chiedere ed effettivamente era lui. E tra l'altro era un grande amico di Giancarlo Cesaroni, che giocava a carte con lui spesso e volentieri. Esatto. Infatti è una perla nel film, perché racconta queste cose ed è anche divertente, ovviamente un romanaccio tosto. Ma è sì, tutto un po' l'ambiente, no? Perché anche a me è piaciuto tantissimo, adesso non ricordo il nome, di un personaggio proprio stile Stefano Rosso, con questi pantaloni a righe e canottiera alla bossiana. Era il bassista, mi pare. Il bassista, Luciano, sì, Luciano Tomasi. Proprio romanaccio, proprio. Di Roma, proprio. Pieno Roma. Infatti sì, lui è quello proprio più amico, intimo di Stefano, infatti poi condividevano pure un certo tipo di Roma. Tu hai proprio creato il parte documentare un po' chi era Stefano Rosso, ma sei proprio riuscito a creare anche il clima proprio romano, proprio come era Stefano Rosso. Guarda, questo per me è un complimento, perché era quello che volevo fare, per cui se mi dici questo vuol dire che sono riuscito nell'intento. Certo. Simone, cos'è che distingueva Stefano dagli altri cantautori e lo distinguerebbe ancora qualcosa rispetto ai cantautori di oggi? Di oggi, guarda, innanzitutto quello che dicevo all'inizio, secondo me, cioè diciamo la coerenza artistica, cioè il fatto di, se voi andate a vedere, per esempio, lo dico pure per gli ascoltatori, no? Se uno si trova la discografia di Stefano Rosso e fa la comparazione tra gli anni di uscita di ogni disco e quello che in quegli anni andava di moda, è totalmente strampalato, cioè nel senso che è totalmente incoerente, per cui lui se ne fregava però, no, della moda musicale. Lui diceva: a me piace fare questo, a me piace scrivere questo tipo di canzoni con questa musica, per cui non mi importa, no? Ecco, oggi è difficile farlo, no? È difficile fare una scelta di questo tipo, poi certi produttori magari ti obbligano in qualche modo a fare delle scelte musicali, di arrangiamenti che magari non ti piacciono, però devi seguire a tutti i costi. E lui invece se ne è sempre fregato, pagandone anche un po', voglio dire, anche le conseguenze, perché poi se io dovevo fare questo film è proprio per questo motivo. No? Era una domanda proprio che volevo farti, se lui alla fin fine questo suo essere, possiamo dire anche al confine, oppure era proprio, possiamo definirlo un po' anarchico Stefano, però sì. Questa sua anarchia la portava sempre nella sua coerenza costante, perché se ascoltiamo che i testi veramente sono molto profondi, esatto. Viveva l'ambiente romano, ma pienissimi di significato, che secondo me sarebbero anche molto attuali. Sì. Sono d'accordissimo, guarda, mi trovi d'accordo. Allora, io direi che a questo punto, Maurizio, possiamo ascoltarci un'altra canzone che io la trovo molto particolare, come altre canzoni, per carità, di Stefano Rosso, però vorrei che prima di ascoltarla la descrivessi un attimino te. Noi volevamo fare ascoltare a tutti Bologna 77. Bologna 77 è dedicata a Giorgiana Masi, no? che fu ammazzata, insomma, durante una manifestazione. Una cosa curiosa che ho scoperto è che, vabbè, a parte, beh, la canzone è bellissima, ma basta ascoltarla, insomma. Tra l'altro lui non voleva farla col pianoforte, lui voleva farla a tutti i costi con la chitarra, però non riusciva a trovare un riff melodico, interessante, eccetera. E poi alla fine invece si optò per questa cosa, ed effettivamente, secondo me, fatta così col pianoforte rende, insomma, è molto molto molto bello. Non te saprei descrivere, perché è una di quelle canzoni talmente belle che bisogna ascoltarle. Allora ascoltiamoci Bologna 77, Stefano Rosso. L'inverno passava, qualcuno di lì, il nastro girava, suonava lì lì, girava il pallone, lo stadio impazzì, la voce tremava, l'inverno finì. E poi primavera e qualcosa cambiò, qualcuno moriva e su un ponte lasciò, lasciò i suoi 20 anni e qualcosa di più, e dentro i miei panni la rabbia che tu da sempre mi dai, parlando per me, scavando nei pensieri miei, guardandomi poi dall'alto all'ingiù, e forse io valgo di più. L'estate moriva, Bologna tremò, la dahlia fioriva e la gente pensò dei tanti domani vestiti di jeans, chiamandoli strani, ma non fu così. E quando mi incontri, se pensi di me, tu sappi che il sole che splende per te è il grano che nasce, l'acqua che va. Padroni non ha. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Rieccoci, rieccoci ancora in studio. Allora, Simone, cosa diciamo di questa canzone? Personalmente dico che se uno ascolta il testo, soprattutto le ultime parole che ha scritto Stefano, è una cosa straordinaria. Sì, no, una volta sentito questa canzone, penso a quanto era bravo, tra l'altro, a scrivere, cioè nel senso che, cioè, la grandezza di un artista poi si vede anche da questo, no? Cioè riuscire con poche parole, perché sono poche le parole, no? di questa canzone, se uno la va a leggere, con poche parole riuscire a trasmettere tantissime emozioni, e quindi, cioè, questo è proprio il risultato del lavoro di un artista che viveva al 100% quello che raccontava. Ernesto Bassignano, Luigi Grechi, Edoardo De Angelis e più Claudio Lolli, ma Claudio Lolli lo metto come ultimo, perché il rapporto fra questi tre, Edoardo De Angelis, Ernesto Bassignano e Luigi Grechi, è stato fortissimo con Stefano. Sì, tu l'hai colorato. Cioè li hai intervistati colorando il personaggio di Stefano musicalmente. Sì, sì, no, ti ringrazio. Sono riuscito a colorare. Io, guarda, cioè, loro sì, hanno conosciuto Stefano in varie epoche, no? Soprattutto Edoardo e Luigi l'hanno conosciuto. Esatto. Sì, eh? E soprattutto Edoardo. Claudio Loli, sì, lo ha intervistato per via del Folk Studio più che altro. Esatto. Esatto, sì, sì. Infatti lui in piena sincerità mi ha detto: guarda, io Stefano l'ho conosciuto poco, ci siamo intravisti qualche concerto, però insomma, infatti lui mi interessava più per appunto per il discorso Folk Studio. Tu hai parlato della condivisione tra Edoardo De Angeli, Ernesto Bassignano e Luigi Grechi, condivisione musicale con Stefano, non solamente musicale, questo è importante. Hai fatto capire a chi vedrà il film e chi ha visto il film come me, che rapporto c'era così importante, così costruttivo, possiamo dire questo. Sì, perché poi hanno condiviso alla fin fine un pezzo di vita importante, no? Cioè poi tutto il periodo del Folk Studio, per cui il periodo in cui tutti cominciavano a fare musica, ecco, e a condividerla al Folk Studio, ma poi non solo, insomma, per cui poi Bassignano, vabbè, c'ebbe quella storia particolare storia, sì, esatto. della bottigliata, no? Esatto, sì. Che si misero a litigare, per cui insomma Bassignano mi racconta questa cosa in cui a un certo punto Stefano gli diede questa bottigliata, poi qualche in testa, qualche giorno dopo si andò a scusare con Rino Gaetano e gli portò un mazzo di fiori che glielo diede in testa facendo il gesto della bottiglia, certo. E quindi si scusarono, però diciamo che erano anni molto, molto particolari in cui sicuramente la condivisione musicale era quella che poi rafforzava e ha rafforzato le loro amicizie sicuramente. E poi un'altra cosa fondamentale che tu hai sottolineato, la bravura di, come chitarrista di Stefano Rosso, e lui ha portato un metal finger picking in Italia, è stato il primo in assoluto, e questa è una cosa molto interessante da dire. Infatti, guarda, ti ringrazio, ho detto questo perché sicuramente ti avrebbe ringraziato pure lui, perché lui ci teneva molto a far sapere questa cosa, cioè lui, a parte che lui fu il primo cantautore a portare nella canzone d'autore appunto la tecnica del finger picking, questa tecnica chitarristica. E poi sì, fece un manuale esatto, che fu anche recensito, insomma, e quindi lui sicuramente era, diciamo, un chitarrista che non solo si accompagnava, seguiva gli arrangiamenti, insomma era un musicista al 100%, insomma, per cui non è stato solo un cantautore ma anche un grande chitarrista. Esattamente, e questo mescolare la romanità alla musica americana è stata una genialità, un'idea molto interessante che poi ha sviluppato in tutti i suoi dischi. Sì, è vero. Soprattutto in Vado prendo l'America e torno, esatto, che tra l'altro è un disco che ha fatto del 2008. Quel disco lì che tra l'altro purtroppo è un po' introvabile, insomma, un po' come gli altri, così. Soprattutto in quel disco là lui sicuramente ha arrangiato i pezzi con quello stile là, insomma, quindi ha dato prova della sua bravura, soprattutto in quel disco, secondo me. Senti Simone, com'è stata la tua prima, perché se non sbaglio è la prima esperienza da regista? È stata particolare, però è stata entusiasmante delle volte, ma anche un po' stancato, perché ovviamente poi è durato molto, no? Per cui ci sono state molte per fare un'ora in pratica di film. Guarda, non so tutto il minutaggio totale, ma diciamo che più che altro ho dovuto girare molto per le strade, insomma, io sono andato proprio con la telecamera, il microfono in spalla a intervistare questi amici e questi artisti che l'hanno conosciuto, insomma, per cui però ci ho messo molto tempo sia per fare il montaggio insieme a Matteo eccetera, e sia pure anche ovviamente per motivi economici, no? Perché poi essendo autoprodotto ogni tanto dovevo raccogliere un po' dei soldi, metterli da parte e continuare a fare le riprese. Chiaramente, però avevi uno spirito libero, come lo aveva Stefano Rosso, Simone, c'è poco da fare. Il modo di filmare, di andare per le strade di Roma nei momenti più interessanti della romanità, e quello è una ricerca, ma nello stesso tempo uno spirito libero, al di là di tutte le mode, al di là di tutti i divieti. Esatto, guarda, infatti, guarda, sono contento perché mi dite queste cose che non ve lo suggerite io, per cui vuol dire che ha funzionato, perché quello che mi interessava era proprio questo, cioè riuscire a trasmettere quello che io provavo nell'ascoltare le canzoni di Stefano e nel vedere questa Roma, no? Che da una parte è fatta di quartieri popolari bellissimi e dall'altra però poi in certo senso invasa da una modernità che poi diciamo tende a cancellare un po', no? questo profumo di nostalgia di passato che poi stavano nelle canzoni di Stefano, insomma. Certo che sentirti parlare così di Stefano e vedere cosa hai fatto, io credo che ripercorrere, respirare i luoghi, le amicizie e le esperienze, soprattutto di Stefano, che in questa realizzazione tu sei riuscito a vivere, penso sia stata una cosa straordinaria anche per te. Sì, no, per me è stato straordinario. Poi a me, cioè, Stefano mi è sempre piaciuto da sempre, per cui poi, come dire, sapere di essere stato comunque in qualche modo il primo a avere dato un contributo così, tra virgolette, grande, perché poi anche grazie a tutti voi, cioè alle radio, a giornalisti, eccetera, sono riuscito a pubblicizzarlo bene, insomma, ecco, a me questa cosa mi dà un piacere che non immagini, cioè, ed è un piacere che nessuno mi toglierà mai, perché ormai questa cosa l'ho fatta e sono contentissimo. Bene. Mancano 15 minuti alla fine del nostro incontro, 15 minuti circa. Prima Maurizio parlava di Valentina. Sì, abbiamo già parlato, prima hai citato il discorso di Valentina, che poteva essere un hit singolo non da poco per Stefano, secondo me, era un pezzo molto interessante. Sì, bello. Poi c'è sempre, come mi raccontava un suo amico che si chiama Giuliano, uno degli amici che ho intervistato, no? C'è sempre questa teoria, questa cosa del viaggio, no? Esatto, sì. Che in questo pezzo sicuramente si rispecchia in modo bellissimo e poetico, come lui sapeva fare, insomma. La sentiamo adesso, cosa dici Stefano? Stefano, pardon, Simone. È un errore che fanno tanti, ormai. È anche un collegamento bello, possiamo dirlo, dai. va bene. Ok. Dove è andata Valentina, chi lo sa? Quella che scappò di casa un anno fa, con il sacco a pelo e un paio di blue jeans, e la scusa in casa mia c'è da impazzire. Io non mi sbagliavo, pala bianchi al quinto piano, troppe punci in testa, quella non andrà lontano. Beata gioventù. Dove è andata Valentina, chi lo sa? Quella che scappò di casa un anno fa, l'hanno vista insieme a due tipacci strani, due di quelli che ragionano con le mani. Io non mi sbagliavo, pala bianchi al quinto piano, e alla madre lo dicevo, calchi un po' la mano. Ah, e adesso ben gli sta. Mezzanotte in casa Bianchi al quinto piano, come mai non rientra in casa Paola, è strano. Notte bianca in casa Bianchi e Bianchi in faccia, è mattino già e inizia ormai la caccia. Si è saputo, l'hanno vista poi montare su una moto, una di quelle da Easy Rider, coi blue jeans e un sacco a pelo andava in là, su una chiappa aveva scritto libertà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. carissimo Maurizio, qui avremo tantissime cose da chiedere. Puntata, Simone, Simone. No? Tutte le cose che vorremmo chiederti, un'altra puntata, c'è poco da fare. Magari. Vabbè, veramente, ci stavamo scambiando adesso io e Maurizio, avremo veramente tante cose da chiedere. Comunque vabbè, non importa, avremo modo magari la prossima puntata qualche particolare. Di riallacciare il discorso, qualcosina. Simone, dai. Vogliamo anche citare, Simone, chi ha collaborato con te, oltre che a Matteo, a questa realizzazione di questo docufilm? Sì, guarda, ma in realtà, guarda, siamo stati io e Matteo, perché abbiamo fatto tutto veramente da soli. Cioè, ovviamente, vabbè, io ringrazio ovviamente tutte le persone che ho intervistato. Che sono tantissime, quindi adesso dovrei citarle tutte, però le potete trovare nel film, da nomi e cognomi. E poi ringraziare tutti voi, cioè tutti i giornalisti e le radio che mi sono state vicine, perché veramente senza di voi non questo documentario non sarebbe rimasto così, in una pagina web e basta, insomma. Per cui anche voi che mi avete intervistato oggi, io vi ringrazio veramente di cuore, perché avete dato il vostro contributo per la memoria di Stefano, lo dico in piena sincerità. E dobbiamo ringraziare soprattutto anche il nostro direttore artistico Alberto Prisco, perché fortemente ha voluto anche che andasse in onda questa tua intervista per Stefano Rosso. Ringraziamo lui, ringraziamo anche Gino l'ascoltautore, che è un amico che abbiamo in comune. Bravissimo, anche Gino. Ciao Gino. Ciao Gino. Prima di concludere c'è una mia curiosità, 30 secondi, la paura del grande pubblico che aveva Stefano fece un festival di Sanremo e si presentò col giornale, cantò con qualcuno, disse: come mai ti sei presentato col giornale? Si presentava col giornale perché non si ricordava il pezzo praticamente, e anche lo sbagliò, ma ritornò subito a Roma, non rimase nemmeno a sentire i risultati, ritornò a Roma, nella sua città, è così, Simone? Esatto, era informatissimo, è così, perché lui, tutti pensavano che fu una scelta coreografica il fatto di portare un giornale, dove tra l'altro dentro c'aveva stampa di testi che, appunto, come dicevi tu, si scordò comunque, e poi tornò a Roma, ma perché lui quell'ambiente non gli è mai piaciuto, cioè lui diceva no, anche in un'altra intervista che poi ho trovato non ho potuto mettere nel film perché c'ho talmente tanto materiale che poi ho dovuto scegliere anche un po' di cose, lui diceva io non capisco perché questa gente che si agita lì a Sanremo dietro le quinte, sta marmaglia, dice che poi per una cosa che poi alla fine è il festival delle canzoni, andate là e fate le canzoni e suonate le canzoni, invece rimase traumatizzato, no? E quindi tornò subito a Roma, sì, senza nemmeno sapere i risultati, e andò al bar San Callisto, che è un bar famoso di Trastevere, dove tra l'altro lavora il fratello di Stefano, quindi andò lì e si fece il suo bicchiere. Questo titolo, L'ultimo romano, ma L'ultimo romano è una, cos'è? Una poesia, un racconto, una canzone? Cos'è L'ultimo romano? Sì, L'ultimo romano è una canzone molto sconosciuta di Stefano, che scrisse, poi ho scoperto dopo questa cosa, che scrisse alla fine degli anni 60. E io pensavo che questa invece l'avesse scritta nell'ultimo periodo, perché è una canzone bellissima, secondo me è veramente una poesia, che poi appunto ho utilizzato per dare il titolo al film, in cui si racconta di questo anziano che torna nella sua Trastevere, nel suo quartiere, e vede che tutto è cambiato, tutto è diventato un parcheggio, non è più come se lo ricordava lui da bambino, no? E per cui attraversa la strada e viene investito. Però lui lo racconta in un modo molto, molto particolare, perché secondo me l'ho interpretato così: viene investito non solo materialmente dalla macchina, ma viene investito in qualche modo da questa modernità. E quindi è questa forza che si sente in questa canzone, che nel film poi va a chiudere, no? Va a chiudere tutto, e viene recitata da un suo amico che è un poeta, che si chiama Nicolino Pompa. Ecco, mi ha portato proprio a scegliere, a dare proprio il titolo a questo film, e poi soprattutto perché secondo me l'ultimo romano è Stefano, perché non c'è stato nessuno che ha raccontato, a mio parere, la Roma in un certo modo, perché poi noi romani ci conosco soltanto in modo così, no, sai, in modo il romano, quello chiassoso, quello che chiacchiera, quello che alza la voce, invece lui ha raccontato una Roma diversa che pochi hanno saputo fare. E allora sai cosa facciamo, Simone? Siccome l'abbiamo trovata bellissima, noi ci ascoltiamo questa parte in parole, senza musica, di questo poeta amico di Stefano Rosso che parlavi prima, e ci ascoltiamo proprio L'ultimo romano. E se n'è ido l'ultimo romano quel giorno, sì, sarà svegliato strano. Disse alla moglie: non te figli appena, male che vada se vedemo il cielo. Non vide manco Gigi il macellaro, guardò Trilussa con sorriso amaro e Ponte Sisto, che manco si vedeva per via del traffico, e lui ce lo deva. Passò il semaforo per rimirarsi al fiume, lo guardò scure, stette a ripensare. Poi disse: andiamo. E se scrollò le piume. Come fu che successe? Non si sa. Traversò come uno che non ci vede, forse stava a guardare la morte in faccia. Con quel casino mise in fallo un piede in mezzo a quel semaforo boiaggio. L'occhio appannato, con le braccia in croce, rivide Roma sotto il sole d'oro e giù per fiume scende il barcarolo. E il barcarolo va, cantò una voce. Poi guardò in cielo e lenta alzò una mano, scansò una nuvola per poter guardare quel sole che calava un po' più piano per dar un saluto all'ordine romano. Blue Time. Simone, sì. Ci è venuto la pelle d'oca quando abbiamo visto il termine del film, e anche adesso che no, ma come il film passasse nel nostro studio in questo momento grazie alle tue parole. Grazie tante. Guarda, io mi spiace se mi sono un po' impattinato nel parlare, ma ogni volta che parlo di Stefano mi emoziono veramente un po'. È stata una bella cosa e potremmo fare nella tua immaginazione, anche nella nostra, può darsi che ci sia il ritorno di Stefano. È ritornato Rino Gaetano per motivi diversi, può ritornare anche Stefano Rosso, cosa dici Simone? Io lo spero tanto, ci credo, devo dire che ci credo, sì. Anche noi ci crediamo. Sicuramente sì, è stata un'esperienza per noi fantastica, poi lo sai che noi siamo un po' anche ascoltavamo quella musica personalmente ancora i due vinili, quanti a Porta a Portiere, sei fortunato Simone. Bio Radio Fotografie, allora senti cosa fa, quindi parlare anche per me, sapere che si poteva parlare di Stefano Rosso soprattutto con una persona che ha realizzato un docufilm su questo cantautore, per me è stata una cosa meravigliosa. Ricordiamo che se non sbaglio Stefano avrebbe 65 anni, mi sbaglio Simone? Sì, mi pare di 2008 aveva 60 anni, quindi 65, sì, esatto. Perché ricordiamo appunto che Stefano è mancato nel 2008. Sì. Noi dobbiamo salutarci purtroppo, sì, purtroppo Simone. Simone, però è un saluto in questo momento, però ci risenteremo, è il momento giusto per presentare il tuo disco Simone. Va bene, io vi ringrazio veramente di cuore per aver sposato la causa e speriamo che qualche ascoltatore si sia incuriosito e vada un po' a scoprire quelle canzoni meravigliose che ha scritto Stefano. Certo. Molte secondo me sono anche poesie. Sì, assolutamente, sono poesie e dopo canzoni. Quanto mancherà l'uscita del tuo CD? Grosso modo, sì. Guarda, io spero dopo l'estate di riuscire a pubblicarlo. Che sicuramente farà piacere Maurizio, c'è anche Frecantoni che collabora con te. C'è Frecantoni che fa la parte di me tra 20 anni. Bene. Ecco, allora. E poi c'è anche De Angelis, insomma ci sono un po' di ospiti e amici, insomma. Bene, molto bene. Ecco, noi avevamo detto che dedicavamo interamente la trasmissione a Simone Avincola, ma a Stefano Rosso. Però io e Maurizio abbiamo deciso di darti uno spazietto, di chiudere e far ascoltare anche cosa fa, tanto per collegarci alla prossima occasione, cosa fa anche Simone Avincola. E quindi noi abbiamo deciso di far ascoltare Abbiamo noi il potere. Due parole veloci su questa canzone, Simone. Sì, avete scelto proprio la canzone con la quale io ho vinto il premio Stefano Rosso. È perfetta. Ed è la canzone che molto probabilmente aprirà il disco. Insomma, è una canzone di protesta. Ho cercato di non essere troppo banale e tedioso nel testo, però penso che al giorno d'oggi è importante anche protestare. Insomma, ne stiamo passando, no? Ecco, insomma, quindi non aggiungiamo altro, Simone. Diciamo esatto. Che è una bella canzone da ascoltare. E, tutta Blu Radio Veneto, Alberto Prisco, Agostino, tutti seguono lo staff, e gli ascoltatori ti ringraziano per questa serata. Grazie a voi, veramente grazie di cuore. Grazie a te Simone, un saluto alla magica Roma. Un saluto a voi, ciao. Ciao Simone, ciao, grazie. Ciao. E pioggia sulle spalle, non abbiamo ombrelli dalla nostra parte. Abbiamo dadi da tirare, abbiamo le pedine pronte. Non abbiamo soldi per comprare carte. Voi avete lingue per parlare e schiene da chinare, pronti a cinguettare, sì signore. Ma se non hai coraggio tu di cambiare, di trasformare, non potrai rialzarti più, ti cambieranno, ti uccideranno, lo sanno fare, lo faranno. Abbiamo sulle mani segni perché coltiviamo sogni sempre stretti dentro i nostri pugni. Abbiamo sangue sui capelli, ferite di coltelli, niente a che vedere coi vostri gioielli. Voi avete notizie da ingoiare e complimenti alla redazione per questa libera, libera, libera informazione. Ma se non hai coraggio tu di cambiare, di trasformare, non potrai rialzarti più, ti cambieranno, ti uccideranno. Lo sanno fare, lo faranno. Abbiamo gente da incontrare, sentieri da esplorare, senza bisogno di una centrale nucleare. Abbiamo noi il potere di mischiare le bandiere, non abbiamo tempo per le ronde nere. Voi avete studenti da manettare, padroni da rispettare, protetti dall'immunità parlamentare. Ma se non hai coraggio tu di cambiare, di trasformare, non potrai rialzarti più, ti cambieranno, ti uccideranno. Sanno fare, lo faranno. E se cadremo giù, ci rialzeremo, combatteremo. Non ci fermerete più, vi cambieremo, vi stracceremo. Lo sappiamo fare.